E allora dormi, s'è fatto tardi. In cielo le stelle adesso incominciano a guardarti. E allora dormi, ma non ne voglio. E ascolti il rumore di un'auto che lenta si ferma. E allora dormi, ma sei distratta. È solo vita che entra da quella finestra. E adesso chiudi i tuoi occhi e lasciati andare. E il tuo respiro si fa lieve. Nascondi i pensieri, fai presto che il domani poi viene. Alzi gli occhi un istante, è dolce il sapore della luna che ti aspetta da ore. E buonanotte a chi tesse in silenzio parole d'amore. E allora dormi e passa tutto. Passa quell'ultimo bacio mai dimenticato. E allora dormi, sei dappertutto. E il tuo sogno diventa la lana che riscalda il mio letto. E adesso chiudi i tuoi occhi e lasciati andare. Sei sola ma sai respirare. Ti scuote un brivido caldo in quest'estate di sale. E se la notte ti guarda tu lasciala fare. Avrà il vestito d'oro del mare. E buonanotte al pazzo che ride. Se la notte ti guarda tu lasciala fare, avrà per te una nuova canzone. E buonanotte ai poeti e ai cantanti che regalano suoni. Allora dormi, e questa voglia sono parole che sciolgono l'anima.